c'è nella vita che non va. Che se giochi male ma nessuno ti dirà cosa pensa veramente o cosa c'è nella tua mente, oppure cose che ti rende così differente. Provi anche a gridare ma nessuno sentirà, puoi fare ragionare ma nessuno capirà, puoi cambiare il mondo ma tu non ci riuscirai, resti come sei e non cambierai mai. Non voglio crescere, non posso smettere di fare sempre solo ciò che piace fare a me. Non riesco a sciogliere il nodo che c'è in me, cerco soltanto un altro luogo dove scendere. Me la chiamano realtà, rischio di cadere pure nella mia città, ma non credo di aspettare, sono stanco di guardare questi occhi che mi fissano per farmi stare male. L'unica ragione che mi regge l'anima è voler emergere su questa società. Proverò a distruggerla ma non ce la farai, resti come sei e non cambierai mai. Non voglio crescere, non posso smettere di fare sempre solo ciò che piace fare a me. Non riesco a sciogliere il nodo che c'è in me, cerco soltanto un altro luogo dove scendere. Cerco soltanto un altro luogo.